Una contadina maestra di vita. Teresa Manganiello. Parte prima. Teresa, figlia di famiglia. Capitolo primo. Il paese nativo. Monte Fusco. Sito quasi a metà strada tra Benevento e Avellino, Monte Fusco, fino a qualche decennio prima della nascita della protagonista di questa storia, aveva gareggiato per importanza e notorietà coi detti capoluoghi. Era stata infatti capitale del principato ulteriore e aveva quindi conosciuto un suo lustro. Nell'arco di tempo in cui visse Teresa Manganiello, 1849-1876, si potevano ancora scorgere segni chiari del passato splendore. Situato a 710 metri sul livello del mare, Monte Fusco si presenta a chi vi accede da diverse provenienze come una sorta di fortilizio ben compatto. In tempi anteriori deve aver di sicuro dato l'impressione netta di un luogo difficilmente accessibile e meno ancora espugnabile. Domina incontrastato sulle vallate sottostanti e sui paesi vicini e attrae spontaneamente gli sguardi dei viaggiatori. Questa posizione, apparentemente ideale e vantaggiosa, ha in realtà i suoi aspetti meno felici. Chi vi abita esalta la purezza dell'aria in primavera e la bellezza del panorama, ma lamenta l'esposizione spesso selvaggia al dardeggiare del sole canicolare d'estate e alla flagellazione del vento, delle tempeste di pioggia e di neve d'inverno. Queste medesime caratteristiche climatiche caratterizzano anche la campagna sottostante, popolata all'epoca da diverse famiglie contadine, tra cui quelle della protagonista di questa storia. Nella seconda metà del XIX secolo, Monte Fusco contava tra paese e campagna circa 2.500 abitanti, di cui 500 nella sola campagna. Va con sé che gli abitanti del paese, che poi passava per una cittadina, erano considerati di categoria socialmente e culturalmente superiore. Non pochi appartenevano alla classe alta, cioè a famiglie nobili e facoltose, o al ceto impiegatizio. Come sede di ex centro politico amministrativo e tribunalizio, Monte Fusco conservava ancora un discreto numero di funzionari, magistrati, avvocati, ex impiegati nei vari settori della vita pubblica, senza contare gli addetti alla direzione e amministrazione delle malfamate carceri, che erano rimaste tuttora attive e punto nevralgico di smistamento di condannati non solo per crimini comuni, ma anche specialmente di condannati politici. Diversa era ovviamente per qualità e censo la popolazione della campagna, appartenente tutta alla gente contadina, analfabeta e umile di condizioni sociali, che lavorava le terre, di proprietà di baroni e altri possedenti terrieri, ed era distribuita in contrade con varie denominazioni. A quest'ultima categoria di braccianti apparteneva appunto la famiglia della protagonista della presente storia. Politicamente e anche amministrativamente, Montefusco conobbe in un arco relativo breve di tempo un succedersi alternarsi di regimi. Cessato il regime di capoluogo del Principato ulteriore, ai primi del secolo XIX passò al Regno Borbonico. Fin dai motti di Napoli, nel 1848, partecipò vivamente alle lotte per l'indipendenza e nel 1860 passò al Regno di Piemonte. Queste alterne vicende lasciarono le loro impronte tra la popolazione, che conobbe contrapposti schieramenti, con conseguenze facilmente immaginabili in termini di turbamenti sociali, di rivalità, di lotte e disordini. Rilevante fu in particolare il fenomeno del brigantaggio, che si scatenò in maniera violenta e fu operativo per lungo tempo non solo a Montefusco, ma anche nei paesi limitrofi, col passaggio dal Regno dei Borboni al Regno di Piemonte. Ancora oggi si ricordano tra gli anziani di quella planga dell'Irpinia episodi di grave ferocia avvenuti intorno agli anni 1860-1861. Nell'aspetto religioso, Montefusco aveva le sue glorie in fatto di strutture chiesastiche e di presenza di clero secolare e religioso. Fra le sue 10 chiese si distingueva quella artistica di San Giovanni del Vaglio, con annessa collegiata palatina, con 12 canonici. Fra i 3 conventi si segnalava quello di San Francesco con i frati conventuali, quello delle suore domenicane e quello dei cappuccini di Sant'Egidio in zona campagna. Unica parrocchia attiva era rimasta quella di Santa Maria della Piazza, il cui parroco aveva il titolo di abate. Fra le numerose confraternite e associazioni che costituivano praticamente l'ossatura della vita parrocchiale e della pietà cristiana, erano particolarmente vitali quelle della Madonna del Carmine e quella del Purgatorio. Fra le principali e più sentite devozioni dei parrocchiani di Montefusco si annoverava quella alla Santa Spina, conservata dall'antichità nella chiesa di San Francesco e festeggiata ogni anno con grande solennità dal popolo. Soprattutto nella plaga campestre, assai sentita era la devozione a Sant'Antonio, con relativa festa, con centro e animazione nella chiesa dei Cappuccini di Sant'Egidio. Per quanto riguarda la vita sociale, non occorre soffermarsi a descriverne le manifestazioni e i contorni abituali, che il lettore si immagina facilmente. Solo deve tener presente che erano tempi di sottosviluppo, di crisi di vario genere, di stenti e non di raro anche di fame. Può essere utile per la retta comprensione della storia della vita di Teresa Manganiello, dello stile di vita della sua condotta, delle sue abitudini e specialmente di certe sue scelte personali in tema di pietà e di virtù spirituale, conoscere nelle grandi linee alcune manifestazioni salienti della storia sociale di Montefusco negli anni in cui lei visse. Risulta effettivamente che alcune evenienze di maggiore spicco caratterizzarono in negativo o in positivo la vita dei Montefuscani nei decenni 1850-1880, nel contesto generale degli eventi italiani di quegli anni gravidi di molte tensioni. Nel 1855 una tremenda epidemia collerica colpì la popolazione, la quale ricorse con grande fede alla Madonna del Carmine, portata solennemente in processione per le vie del paese nel mese di novembre, e rimase libera nel nevrasto morbo. Ne riparleremo più avanti. Nel mese di gennaio del 1859 la popolazione si recò esultante sulla via del Consolare per salutare il Duca di Calabria e la principessa Sofia Amalia di Baviera, reduci dalle loro nozze. Per l'occasione furono donate 25 doti di matrimonio ad altrettante ragazze in procinto di sposarsi. Il 4 novembre 1860 fu deliberato il passaggio di Montefusco dal Regno di Napoli al Regno di Piemonte, proclamando re Vittorio Emanuele. Nel dicembre dello stesso anno, il cardinale Domenico Carafa, della Spina dei Duchi di Traetto, arcivescovo di Benevento, fu costretto ad abbandonare la città e diocesi e ad andare in esilio e a restarvi fino al 1867. Nel mese di giugno 1861, una banda armata tentò di espugnare Montefusco e di liberare i prigionieri politici racchiusi nelle carceri. Nel mese di luglio del 1867, Montefusco fu sconvolta da un caso di stupro compiuto da un pubblico ufficiale ai danni di una ragazza di 17 anni. La notizia suscitò un vero tumulto popolare di reazione e di protesta. Nel maggio del 1868 il giornaliero rifornimento di pane venne sospeso per scarsità di farina e per ordine delle autorità comunali. Nel 1873 ebbe grande risonanza anche a Montefusco la prodigiosa luminosità dell'affresco del Redentore sull'abside di un'antica chiesa di Prata. Nel maggio dello stesso anno, 1873, una memorabile grandinata colpì Montefusco e la campagna con gravissime distruzioni delle messe e di altri frutti della terra. Il comune dovette stanziare un sussidio di 10 lire alle famiglie colpite dalla grandine. Fu questo l'ambiente vitale, più sommariamente tratteggiato che descritto, nella quale la protagonista visse la sua vita ed esplicò la sua attività. Montefusco assomiglia a tanti altri paesi dell'Irpinia e del resto del Mezzogiorno d'Italia. E le sue condizioni sono simili a quelle di molti altri ambienti di quegli anni, ma anche non a pochi luoghi dei nostri giorni.